Il giorno è rude, è come una palude, di giorno ne vedo di cotte, di crude, di tiepide, e quando ne ho viste abbastanza, rifugio nella stanza, sonno in abbondanza, stanco, sotto il mio rettangolo di tetto, cado morbidoso sul rettangolo di letto, drin drin don, 12 rintocchi, chiudo gli occhi, ed il paese dei balocchi è qui, e le porte sono tutte aperte, quante scoperte, si fanno sotto le coperte, ed è dolce come panna, l'eco della ninna, quando vado a nanna, io dormo con le gambe rannicchiate, per rotolare senza sforzo nelle mie nottate di sogno, che suona come una carezza, dopo una giornata di assoluta pesantezza. E la notte se ne va, io rimango fermo qua, ad aspettare, ad impazzire, se la notte vola via, non sarà per colpa mia, che sto rubando più di un secondo. Il sogno cattura per ore ed ore ed ore, a volte fa la guerra, a volte fa l'amore, e quando chiudi gli occhi non sai mai cosa succede, saluti la tua vita, domani ci si vede al mattino, tranquillo come dentro il pigiamino, stringo come un bambino il mio cuscino, che forse mi diventa una fanciulla, o forse mi ricorda il pianto soffocato al buio della culla. Dormo e i raggi mi daranno il buongiorno, ma non mi sveglieranno mai. Che non sa soffrire, penso alle tenere carezze di mia mamma prima di dormire, nel mio letto zattera di lana, nel mare di emozioni che la luna chiama mentre mi allontana dalla riva della sveglia, fate piano per favore, sono un dormiveglia. E la notte se ne va, io rimango fermo qua, ad aspettare, ad impazzire. Se ne va.